Dopo pranzo, l'auto riportava Albertin. C'era ancora un po' di luce. L'aria era meno calda, ma dopo una giornata torrida, sognavamo entrambi sconosciute freschezze. Ai nostri occhi febbricitanti, la strettissima luna parve a tutta prima, come la sera in cui ero andato dalla principessa di Guermain e Albertin mi aveva telefonato, la leggera, sottile scorza, poi il fresco spicchio d'un frutto che un invisibile coltello cominciasse a sbucciare nel cielo. Altre volte ero io che andavo, un po' più tardi, a prendere la mia amica. Lei, allora, doveva aspettarmi davanti ai portici del mercato, a Menville. Sulle prime non la distinguevo. Già mi preoccupavo che non venisse, che avesse capito male. Ma ecco che la vedevo, nella sua camicetta bianca a pois azzurri, saltare al mio fianco nella vettura con l'agile balzo d'un giovane animale più che d'una fanciulla. E appunto come una cagna, cominciava subito ad accarezzarmi senza fine. Quando la notte era completamente scesa e, come diceva il direttore dell'albergo, il cielo era tutto con punto di stelle, se non passeggiavamo nel bosco con una bottiglia di champagne, andavamo, senza preoccuparci dei villeggianti che ancora deambulavano sulla diga debolmente illuminata, ma che non avrebbero distinto alcunché sulla sabbia nera due passi da loro, a stenderci al riparo delle dune. Lo stesso corpo nella cui flessuosità viveva tutta la grazia femminile, marina e sportiva delle fanciulle che avevo visto passare per la prima volta sullo sfondo dei flutti, lo tenevo stretto contro il mio, sotto una sola coperta, proprio in riva al mare immobile attraversato da un raggio tremante. E l'ascoltavamo al mare, senza mai stancarci e con immutato piacere, sia quando tratteneva il respiro abbastanza a lungo da far credere che il riflusso fosse cessato, sia quando esalava infine ai nostri piedi il mormore atteso e ritardato. Finivo col riaccompagnare Albertin a Parville. Arrivati davanti a casa sua, dovevamo interrompere le nostre effusioni per paura che ci vedessero. Poiché non aveva ancora voglia di andare a dormire, lei tornava con me sino a Balbec, da dove la riaccompagnavo un'ultima volta a Parville. Gli autisti di quei primordi dell'automobile erano persone che andavano a dormire a qualsiasi ora, e infatti non rientravo a Balbec che con la prima umidità del mattino, solo, questa volta, ma ancora tutto circondato dalla presenza della mia amica, rimpinzato d'una provvista di baci lunga da smaltire. Sul tavolo trovavo un telegramma o una cartolina postale. Era Albertin, ancora. Gli aveva scritti a Keteholm mentre io ero via con l'auto per dirmi che pensava a me. Mi mettevo a letto rileggendoli. Scorgevo allora, sopra le tende, una striscia di luce solare e mi dicevo che dovevamo amarci davvero se avevamo passato tutta la notte a scambiarci dei baci. Quando la mattina dopo vedevo Albertin sulla diga, avevo una tale paura che mi rispondesse di non essere libera quel giorno e di non poter venire a fare una passeggiata con me, che facevo di tutto per ritardare il momento in cui gliel'avrei chiesto. Ero tanto più inquieto in quanto lei sembrava fredda, preoccupata. Passava gente che conosceva. Sicuramente aveva fatto per il pomeriggio progetti da cui ero escluso. La guardavo. Vedevo il corpo incantevole, il volto rosato di Albertin inalberare di fronte a me l'enigma delle sue intenzioni, la decisione ignota che avrebbe fatto la felicità o l'infelicità del mio pomeriggio. Era tutto uno stato d'animo, tutto un futuro di vita che aveva preso davanti a me la forma allegorica e fatale d'una fanciulla. E quando alla fine mi decidevo, quando con l'aria più indifferente possibile le chiedevo «Andiamo a fare una passeggiata oggi pomeriggio e stasera?» e lei mi rispondeva «Certo, volentieri!» allora la sostituzione improvvisa e totale nel roseo volto della mia lunga inquietudine con una quiete deliziosa mi rendeva ancor più preziose quelle forme cui sempre dovevo il benessere, la distensione che si prova dopo che è scoppiato un temporale. Mi ripetevo, com'è cara, che creatura adorabile, in un'esaltazione meno feconda di quella procurata dall'ebbrezza, appena più profonda di quella dell'amicizia, ma molto superiore a quella della vita mondana. Disdicevamo l'automobile solo nei giorni in cui c'era un pranzo dai Verdurin e in quelli in cui, non essendo Albertine libera d'uscire con me, ne approfittavo per avvertire chi desiderava vedermi che sarei rimasto a Balbec. Davo a Saint-Loup l'autorizzazione a venire in quei giorni, ma in quelli soltanto. Infatti, una volta che era sopraggiunto senza preavviso, avevo preferito la rinuncia a vedere Albertine al rischio che egli la incontrasse, che venisse compromesso lo stato di calma felice nel quale mi trovavo da qualche tempo e si rinnovasse la mia gelosia. E non ero stato tranquillo fino a che non era ripartito. Così Saint-Loup s'assoggettava a malincuore, ma scrupolosamente, a non venire mai a Balbec senza essere convocato. Un tempo, quando pensavo con invidia alle ore che Madame de Germont passava insieme a lui, mi era così caro vederlo. Le persone cambiano continuamente posto in rapporto a noi. Nell'impercettibile ma eterno procedere della società, le consideriamo come fossero immobili, in un tempo di visione troppo breve perché si possa scorgere il movimento che le trascina. Ma basta che scegliamo nella nostra memoria due loro immagini, prese in momenti diversi, abbastanza ravvicinati, tuttavia, perché esse non siano cambiate, almeno sensibilmente in sé, e la differenza fra le due immagini ci darà la misura di quanto si siano spostate rispetto a noi. Saint-Loup mi turbò profondamente parlandomi di Verdurin. Temevo che mi chiedesse di introdurlo in casa loro, il che sarebbe stato sufficiente, considerando che la gelosia non avrebbe cessato di tormentarmi, a guastare tutto il piacere che vi assaporavo con Albertine. Ma per fortuna, Robert mi confessò che quel che soprattutto desiderava era al contrario non conoscerli. «No», mi disse, «questo genere di ambienti clericali mi esaspera». Non capii all'inizio l'aggettivo clericale applicato ai Verdurin, ma il seguito della frase di Saint-Loup mi chiarì il suo pensiero, le sue concessioni a mode di linguaggio che si vedono spesso, con stupore, adottate da uomini intelligenti. «Sono ambienti», proseguì, «dove si fa tribù, dove si fa congregazione e cappella. Non mi dirai che non è una piccola setta, tutto miele per quelli che ne fanno parte, mai abbastanza disprezzo per quelli che ne sono fuori. La questione non è, come per Amleto, essere o non essere, ma essere dei loro o non esserlo. Tu lo sei, mio zio Charlot lo è. Che vuoi farci? A me non è mai piaciuta questa roba, non è colpa mia». La regola che avevo imposto a Saint-Loup di non venire a trovarmi senza essere convocato, la promulgai, ben inteso, con non minor rigore, nei confronti di qualsiasi persona con la quale mi fossi a poco legato, alla Raspellière, a Féterne, a Montsouvain e altrove. E quando dall'albergo scorgevo il fumo del treno delle tre che, lungo le anfrattuosità delle scogliere di Parville, lasciava il suo tenace pennacchio lungamente appeso al fianco delle verdi pendici, non avevo alcun dubbio circa l'identità del visitatore che veniva a far merenda con me e mi era ancora celato, come un dio, dentro quella piccola nube. Devo ammettere che fra quei visitatori, da me preventivamente autorizzati, non vi fu quasi mai Saniette, e me lo sono assai spesso rimproverato. Ma il fatto che Saniette fosse consapevole d'annoiare, e facendo una visita ancora di più naturalmente che raccontando una storia, aveva come conseguenza che, sebbene fosse più colto, più intelligente, migliore di tanti altri, sembrava impossibile provare in sua compagnia, non dico il minimo piacere, ma qualcosa di diverso da uno spleen quasi intollerabile e tale da guastarvi l'intero pomeriggio. Probabilmente, se Sagnetta avesse ammesso con franchezza la noia che temeva di provocare, le sue visite non sarebbero state paventate. La noia è fra i mali meno gravi che si debbano sopportare. La sua esisteva, forse, solo nell'immaginazione degli altri, i quali gliel'avevano inoculata grazie a una sorta di suggestione che aveva fatto presa sulla sua simpatica modestia. Ma ci teneva tanto a non far vedere d'essere poco ricercato che non osava proporsi. Certo, aveva ragione a non comportarsi come chi si compiace talmente di potersi togliere il cappello in pubblico che, non avendovi incontrati da molto tempo e scorgendovi in un palco in compagnia di persone brillanti e a lui sconosciute, vi lancia un saluto furtivo e altisonante, adducendo a propria scusa il piacere, l'emozione che prova nel vedervi, nel constatare che avete ripreso a concedervi qualche svago, che avete una buona cera, eccetera. Ma Sagnette era all'opposto troppo sprovvisto d'audacia. Avrebbe potuto dirmi da Madame Verdurin o sul trenino che gli avrebbe fatto molto piacere venire a trovarmi a Balbec se non avesse avuto paura di disturbarmi. La proposta non m'avrebbe affatto spaventato. Invece non proponeva niente, ma con un viso torturato e uno sguardo non meno indistruttibile d'uno smalto cotto, nella cui composizione entrava peraltro assieme a un palpitante desiderio di vedervi, a meno che non avesse sott'occhio qualche individuo più divertente, la volontà di non lasciar trapelare tale desiderio, mi chiedeva in tono distaccato: «Sapete già cosa farete in questi giorni? Perché verrò sicuramente dalle parti di Balbec. Ma no, non ha importanza, dicevo così per dire». Questo tono non traeva in inganno. E i segni opposti, per mezzo dei quali esprimiamo i nostri sentimenti, traducendoli nel loro contrario, sono di così facile lettura che ci si chiede come possa esserci ancora qualcuno che dice, per esempio: «Ho tanti inviti che non so dove sbattere la testa», per dissimulare di non essere invitato da nessuno. Ma c'era di più. Quel tono distaccato, a causa probabilmente di ciò che entrava nella sua torbida composizione, insinuava in voi qualcosa che né il timore della noia né la franca ammissione del desiderio di vedervi avrebbero mai prodotto, cioè quella sorta di malessere, di repulsione, che nell'ambito dei rapporti di semplice cortesia sociale è l'equivalente di ciò che è in amore la proposta mascherata, fatta da un innamorato a una signora che non lo ama, di incontrarla l'indomani, sostenendo tuttavia di non tenerci affatto, o peggio ancora, nemmeno tale proposta, ma un atteggiamento di falsa freddezza. Immediatamente, dalla persona di Sagnette emanava un non so che per cui si era indotti a rispondergli con l'aria più affettuosa del mondo. «Questa settimana, purtroppo, non è possibile, vi spiegherò». E al suo posto lasciavo venire persone che gli erano decisamente inferiori, ma non avevano il suo sguardo carico della malinconia, la sua bocca increspata dall'amarezza di tutte le visite che aveva voglia, tacendogliela, di fare a questo e a quello. Disgraziatamente, era molto raro che Sagnette non incontrasse sul tortiglione l'invitato che veniva a trovarmi, seppure questi, in casa Verdurin, non m'aveva detto: «Non dimenticate che vengo a trovarvi giovedì», giorno in cui, per l'appunto, avevo detto a Sagnette di non essere libero. Così il poveretto finiva con l'immaginarsi la vita come una successione ininterrotta di divertimenti organizzati a sua insaputa, se non addirittura contro di lui. D'altra parte, siccome non si è mai tutti d'un pezzo, quel mostro di discrezione era morbosamente indiscreto. La sola volta in cui per caso venne a trovarmi mio malgrado, una lettera, non ricordo di chi, era posata sul mio tavolo. D'un tratto vidi che ascoltava solo distrattamente quello che gli dicevo. La lettera, di cui ignorava del tutto la provenienza, lo affascinava. e avevo continuamente l'impressione che le sue pupille smaltate stessero per uscirgli dall'orbita per raggiungere la lettera, una lettera banalissima, ma che la sua curiosità aveva trasformato in calamita. Lo si sarebbe detto un uccello sul punto di slanciarsi fatalmente verso un serpente. Alla fine non ce la fece più. Cominciò con lo spostarla come per mettere ordine nella stanza. Non soddisfatto, la prese, la girò, la rivoltò come macchinalmente. Un'altra forma della sua indiscrezione era che, appiccicatosi a voi, non riusciva più ad andarsene. Poiché quel giorno non mi sentivo bene, lo pregai di fermarsi solo mezz'ora e di riprendere il treno successivo. Pur non dubitando del mio malessere, mi rispose: «Rimarrò un'ora e un quarto e poi me ne andrò». In seguito mi sono pentito di non avergli detto di venire tutte le volte che poteva. Chi lo sa, forse avrei scongiurato la sua mala sorte. Altri l'avrebbero invitato e per loro si sarebbe affrettato ad abbandonare me, così che i miei inviti avrebbero avuto il doppio vantaggio di restituirgli la gioia e di liberarmi di lui.